cosa c'ha di così indecente. Esatto, questo sì, poi il suo attacco personale al coso. Guarda, l'impressione mia è che lui non abbia visto il film, abbia l'eco del libro e del fatto che si è parlato male del libro, e più magari gli sta l'antipatico Giordana, perché non gli piace La meglio gioventù, che detto fra di noi non è piaciuto manco a me per quella glassa buonista che è una cosa, che è una cosa sempre nauseante. Sì, però hai capito, c'ho sui coglioni il regista che lo ha preso da un film, da un libro di quel tipo, vaffanculo, non lo vedo nemmeno. Come Bianconi, come chi è stato, Boatti, che ha detto non lo vado nemmeno a vedere. Ma perché? No, non si esagera. Ora, io l'ho trattato un po' meglio di come meritava quel film. Sì, però ho detto fra di noi, beh, sì, in ma ottica di studiamo con ragazzi, reale, detto, fra, detto fra di noi, è stata un'operazione volgarmente strumentale per finire di distruggere quella schifezza di libro che è l'obiettivo vero. Che è. Dopodiché il film, però, mo, detto fra di noi, indecente non è. No, non è un, è un film di livello medio, medio buono, diciamo da 7. Non da 9, non diciamo, da 8. Favino e Mastrandrea sono due figli. Forse Favino ha un'interpretazione straordinaria di Pinelli, tant'è vero che persino Lanza, che ha conosciuto Pinelli, era meravigliato e gli ha detto la sera da sbalordito: ma come hai fatto a imitare perfino le espressioni che Pinelli aveva e che erano quelle, tu che non l'hai mai conosciuto? Lui ha detto, beh, ho visto le foto, le cose, dici, no, ma bene, le foto, le espressioni, bravo, visto cosa? Bravo, cioè, bravissimo. No, Favino, ora, Romanzo criminale in ACAB, non mi puoi dire che quel film è un film indecente. No, assolutamente. C'è un più, tante, ecco, vedi, io Giordano, coso, Staiano lo invito, perché è un critico, cioè, quell'altro, Goffredo Fofi, non mi va di invitarlo, perché finisce una serie di insulti reciproci. Allora, va bene, pensateci. Ti facciamo sapere. Allora, dai. Io penso che questo è il primo di una serie di seminari che noi faremo per decidere come si scrive, perché io vorrei che a tutto questo poi seguisse in qualche modo qualcosa, seguisse il fatto di scrivere, di prendere dei progetti, eccetera. Allora, partiamo da una cosa. La storia. Perché si scrive un libro di storia? Ci sono tre approcci possibili. C'è l'approccio amatoriale, c'è l'approccio di carriera, di funzione, e c'è l'approccio scientifico. Attenzione che ho distinto fra l'approccio di carriera e l'approccio scientifico. L'approccio amatoriale è l'approccio del parroco che scrive la storia della sua chiesa, del sindacalista metalmeccanico come il nostro amico Giuseppe Sacchi, che sul filo fra la memoria personale e l'episodio storico vissuto in prima persona rievoca la lotta degli elettromeccanici. Oppure il mio vecchio maestro Enzo Mazzoccoli, che di mestiere faceva l'assicuratore e però gli piaceva la storia e ha fatto una serie di cose anche pregevoli di storia sociale, di storia politica, eccetera. Attenzione, l'amatore non è il, necessariamente il dilettante, l'incompetente, è quello che non lo fa per mestiere, lo fa appunto in modo amatoriale. Ma fra gli amatori, anche se è raro, possono esserci anche storici di ottimo livello, cioè non è che non bisogna avere un atteggiamento di spocchia. L'unica cosa è che l'amatore non ha un atteggiamento di natura economica, poi schiariremo che significa questo economica nei confronti della sua, lo fa come hobby, per piacere, non deve ricavarci soldi, non deve ricavarci posizione professionale, non deve ricavarci nulla, lo fa perché è mosso da pulsioni non professionali, da ricordi personali, bisogno di sottolineare una cosa, impegno politico, insomma tante cose. L'approccio di carriera o di funzione io l'ho distinto da quello scientifico. Perché? Perché quello scientifico non necessariamente ha un fine di carriera, cioè non è che l'approccio scientifico è solo quello del professore universitario. Il giornalista che scrive un certo libro, oppure lo storico che lo fa solo dal punto di vista della pubblicazione. può non essere uno che lo fa all'interno di una logica concorsuale, concorsi o cose di questo tipo. Allora, l'approccio scientifico è legato alla dimensione professionale, l'approccio di carriera non è puramente professionale. Di tutti e tre gli approcci, quello meno significativo è quello di carriera, è quello concorsuale. Per concorsuale io intendo non solo il professore che scrive il libro per un concorso, intendo anche lo studente che fa una tesi, perché la deve fare, perché se no non si laurea. Tesi di volta in volta, di triennale, di biennale, di dottorato, di quello che vi pare a voi. Quello che fa una certa ricerca perché deve partecipare a un qualche concorso non di natura universitaria, magari altro tipo di insegnante, va bene? In questa cosa c'è una dimensione prevalentemente burocratica. Naturalmente anche fra quelli che fanno un libro per ragioni, una ricerca storica, per ragioni concorsuali, per ragioni diciamo di funzione, di carriera, può esserci anche lo scienziato, però la sua motivazione non è di carattere scientifico, è di carattere di status. Viceversa, il lavoro di tipo scientifico può anche essere fatto da un docente universitario, da un professore di scuola media, cioè non è importante, però la pulsione non è prevalentemente quella di carriera, è la pulsione dello scienziato, che lo fa soprattutto perché si distingue dall'amatore per l'approccio di tipo professionale. Che cosa significa professionale? Allora, prima di tutto il discorso è questo: l'amatore fa una cosa perché significa qualcosa nella sua memoria, nella sua vita, per impegno politico, eccetera. Il professionista non lo fa per questo, lo fa perché sta facendo un'operazione di natura culturale o scientifica. Quindi deve porsi un problema che l'amatore non si porrà mai. Io parlo della lotta agli elettromeccanici perché l'ho fatta io, non perché sia importante in sé, magari lo è anche, però io scrivo un libro sulla lotta al turaccio di ficcio di Locorotondo, che se c'è stato o non c'è stato non cambia assolutamente una sega di niente nella storia dell'umanità, però io quella ho fatto, voglio parlare di quello, va bene? Io sto in una chiesa che non ha assolutamente niente di importante storicamente come arte, cioè, però sono il parroco di quella chiesa e voglio parlare di quello. Questo non è l'atteggiamento dello scienziato. Lo scienziato si deve sempre porre il problema in termini di costi e di benefici. Io mi sto occupando di questo argomento e le tre domande che ti devi porre sono sempre queste: perché abbiamo scelto questo argomento? Qual è l'importanza di questo argomento? Secondo, quanto ci costa? Eh sì, perché un costo c'è sempre. Il costo può essere in denaro, viaggi, fotocopie, libri da comprare, ma può essere soprattutto in ore lavoro, non ci sono santi, devi sacrificare una certa quantità di ore per fare quella cosa. Terzo, una volta fatto un rapido diciamo progetto di fattibilità a base dei soldi, dei mezzi, delle fonti che hai a disposizione, fino a che punto ti può portare quella ricerca. Cioè, vabbè, magari l'argomento è importantissimo, però le fonti non ci stanno. Sì, ci sarebbe un fondo molto interessante a Mosca, però tu non conosci il russo e non hai i soldi per andare a Mosca, e in ogni caso l'archivio è chiuso. Ma allora, di che stiamo parlando? Oppure, sì, i documenti ci sono, ma sono così incompleti, così eccetera, che puoi al massimo arrivare a formulare un'ipotesi senza giungere a una conclusione, non dico certa perché la certezza nella storia non c'è mai, ma diciamo abbastanza piazzata. E allora lì ti poni un problema: ci devo spendere 100 ore di lavoro, vabbè, per arrivare a un'ipotesi ci può stare. Ci devo spendere 500 ore di lavoro, beh no, per arrivare poi a un'ipotesi non ne vale la pena. Se devo fare un calcolo per cui devo andare a prendere un documento a Pinerolo, uno a Cefalù, uno a Tirana e uno a Cagliari, per cui devo fare quattro viaggi, soldi, cose, Poi ogni viaggio naturalmente sono 2 giorni, poi per arrivare a mettere insieme 5-6 documentuzzi che mi permettono di fare una modesta ipotesi, beh senti, lascia perdere. Quindi le 3 domande sono sempre criteri economici, costi e benefici. Quanto costa? Perché è importante? Che cosa ci posso spremere? Cosa ci posso ricavare? Questo significa definire il problema storiografico che abbiamo davanti. Non si sceglie una... Ecco, allora, facciamo un esempio noto. Chi era il trombettiere di Garibaldi? Risposta, chi se ne fotte? Quando l'abbiamo sentito? Che ci... No, siccome è una cosa che il Cisco, la Cisco mi ha mandato veramente? Recentemente, sì. Chi era il trombettiere di Garibaldi? Ma vai a fare in culo tu. E... Cioè, che ti cambia? I cappellai di Monza. Azzo, come abbiamo potuto vivere finora senza? Oppure l'ultima seduta di tesi alla quale ho partecipato, vi giuro ragazzi, mi sono sentito umiliato. Le nozze di Re Carlo, di Carlo, del principe Carlo d'Inghilterra e di Lady Camilla Parker nella stampa italiana. Relatore Signorini. Relatore non mi, era una Fonti, Emilio Fede. Io giuro volevo alzarmi in Giovrevi d'Amazzate. Giovrevi d'Amazzate. Quando poi ci siamo riuniti per dare il voto, ci siamo chiamati a un bacio. Ada, che sei molto madera, fa, sai, ci siamo, Aldo e io ci siamo fatti un sacco di risate su questa tesi, ma come ti è venuto in testa di là? Dici, no, questa è una povera crista che non capisce niente. Gli ho dato 3 argomenti, li ha sbagliati tutti e 3, non era cosa, zeppa di errori di italiano. Allora le ho dato un argomento alla sua portata per fargli riassumere gli articoli, vi garantisco non ci sono errori di italiano. A me allora, cazzo. Allora, ecco un punto almeno. Quando sono laureato? No, gli abbiamo dato un punto. Allora, ecco, non si fa ricerca storica così, naturalmente, non si sceglie l'argomento così. Qualche giorno fa Christian mi ha detto, senti, che ne dici di fare una tesi sulla mafia del Brenta, eccetera, spiegandomi, eccetera. E io gli ho detto, vabbè, facciamo il conto. Che ci aggiunge la conoscenza della mafia del Brenta? Stabilire se è mafia o criminalità organizzata secondo... No, le categorie che ci siamo dati, eccetera, eccetera. Potrebbe anche essere, però vediamo quanto ci costa in termini di la Sacra Corona Unita. E lì si pone un problema. Cioè, per esempio, si tratta di un'organizzazione, la mafia, così importante, che ha una durata così vasta nel tempo. Beh, insomma, è abbastanza che quello è un argomento, diciamo, di peso storiografico. La camorra, la malavita a Milano, anche se un ambito più ridotto è in una città, è, diciamo, un tempo abbastanza limitato, perché poi sono quei 20 anni, l'epica dei 3 delinquentazzi sostanzialmente. Però attenzione, sì, non è un grande fenomeno, però hanno messo mano in questioni come il caso Moro, come, cioè, è una storia circoscritta, però c'è un certo peso. La storia della Magliana a Roma già cominciava un po' a scendere, però sì, sempre il caso Moro ci hanno smanettato un po', il caso Orlandi potrebbe starci. La quarta mafia, quella pugliese, beh, comincio a chiedermi se vale la pena o no, perché poi faccio il conto, appunto, quanto mi costa. Può darsi che poi la mafia del Brenta, la quarta mafia pugliese, sia un gioco che va alla candela, perché magari stiamo pensando a un'operazione collettanea di volume sulle mafie italiane. Allora ci sono vari contributi, in questo quadro può starci. Oppure la mafia del Brenta dura poco, è piuttosto limitata, però è così particolare per le tecniche d'azione, che è un caso che merita di essere studiato per la sua particolarità. Ecco, allora, scegliere un argomento significa fare questi ragionamenti, cioè volta per volta dobbiamo porci il problema di perché stiamo scegliendo questo argomento, che peso ha. Ovviamente quanto possiamo indagarlo e quanto ci costa indagarlo. Quindi queste sono le tre cose. E insisto, il costo maggiore non è tanto di denaro, che però in alcuni casi c'entra, perché se io devo andare a fare una tesi lavorando su INARA, sugli archivi National Archive americani, stai ad andare a Washington, restare magari un mese, eccetera, non è detto che abbiamo i soldi per farlo. Ti viene fuori una ricerca che ti costa 7, 8, 10 mila euro, non è detto che li abbiamo. E vi assicuro che 7, 8, 10 mila euro sono veramente... Se voi pensate che la ricerca sul Mediterraneo di Brodel venne finanziata dalla Fondazione Rockefeller negli anni 60 con 2 milioni di dollari, che erano 1,5 miliardi, 1,3 miliardi delle lire anni 60, quando un appartamento costava 8 milioni. Cioè, stiamo parlando del costo forse di un paio di palazzi. Forse gli è venuta bene. Scusa, ma che interessante. In realtà era un geniale cialtrone, perché io ho fatto i conti. No, ti spiego. Lì poi è la capacità dello storico di spacciare la sua idea per una cosa scientifica. Io ho fatto i conti sull'elenco degli archivi che lui diceva consultare, eccetera, eccetera. Pur dicendo una settimana ciascuno, avrebbe dovuto starci 35 anni, che non c'è stato. Poi aveva scritto un'ebra, la sfera. Vabbè, mi stai facendo un elenco, anche perché devi giustificare le pezze d'appoggio della fregata Teresa. Vabbè. Ok, bravo ragazzo, su, però insomma, non si esagerà. Ecco, quindi, allora, a questo punto, diciamo, prima cosa, formiamo il quesito storiografico. Questa è la prima operazione. È l'operazione più difficile, in realtà, qualsiasi docente educato e per bene non avrebbe mai iniziato da questo punto, avrebbe iniziato a parlarvi delle fonti, della cosa proprio più piana, e poi man mano no, invece secondo me dobbiamo iniziare proprio dalla cosa più complicata, dalla definizione del quesito storiografico. Allora, come si forma il quesito storiografico? Una volta che abbiamo deciso, ovviamente per decidere che l'argomento è importante, devi fare una sorta di pre-inchiesta, no? Devi dire, beh, allora, lo stato dell'arte, su Napoleone III, cosa c'è? Ci sono tot libri, eccetera. Questo è quello che è stato detto, ovviamente sceglierai per lo più i classici, perché magari su Napoleone III sono quattro biblioteche, allora, vai a vedere quello, vedrai che cosa? I grandi classici, i libri più recenti, le scoperte più recenti, forse le tesi un po' più eretiche. No, vedrai le cose in qualche modo di punta, la medievale, perché poi gran parte della roba che c'è partì dall'idea che è ripetitiva, quindi quello poi ne parleremo. Quindi, prima cosa, inchiesta sullo stato dell'arte. Dopo che abbiamo capito che cosa c'è, cerchiamo di capire che cosa non c'è. Un libro, una ricerca, si fa per soddisfare una lacuna. Se l'argomento su cui vuoi scrivere è già stato trattato, esaurito e sviscerato, che vuoi dire? Cioè, devi individuare la lacuna storiografica da colmare. Io voglio sapere perché Hitler decide di scatenare la guerra alla Russia quando ancora non ha chiuso la guerra con l'Inghilterra, e dopo che lui aveva scritto ripetutamente mai più l'errore della guerra su due fronti, che è quello su cui la Germania viene massacrata nella prima guerra mondiale. Ci sono varie spiegazioni. C'è chi dice, ma sai, in realtà lui la guerra con l'Inghilterra in quel momento era ferma, quindi in realtà non è che ce l'aveva, si butta sulla Russia per guadagnare quel vantaggio strategico che gli permette poi di accerchiare l'Inghilterra. C'è chi ricorre ad altre spiegazioni, no? C'è stato un ruolo dell'intelligence inglese che lo ha ingannato. Ci sono tesi ancora più radicali, come quella più recente sul viaggio di Hess, la fuga di Hess, di Rudolf Hess in Inghilterra, dove c'è un tutto un racconto di intrecci con la famiglia reale inglese, dove c'erano filo nazisti, una cosa molto complicata, un po' romanzesca, un po' cucchiarelliana. Anche perché sono due gli est, cioè, con due aerei distinti. E allora sai, cioè, però l'autista era Rolandi. Sì, l'autista era uno dei due, lo scambio di persona della commedia che oh, allora magari tu dici, allora senti, questa tesi non mi convince perché non è sufficiente. Sì, ci sarà stato pure la valutazione che la guerra con l'Inghilterra era ferma, per cui, però non basta. La tesi del ruolo dei servizi segreti inglesi, sì, ci sta, ma non è documentata, non è. La tesi del matto, eccetera, eccetera, è illogica, non regge. Dobbiamo chiarire, questo punto non è ancora sciolto. E siccome è un punto importante per capire la storia della Seconda Guerra Mondiale, poi però c'è il secondo passo. E tu che cosa c'è? Che cosa puoi trovare che risponda al tuo quesito? È lì. Quindi questa è la preinchiesta. Fatta la preinchiesta, naturalmente alla preinchiesta si antepone una cosa. Dobbiamo identificare l'oggetto, il quesito. Il quesito significa definire di che cosa ci stiamo occupando, per materia, per tempo e per spazio. Allora, ci stiamo occupando della criminalità in Italia negli anni Ottanta. Allora, materia e criminalità, limiti spaziali Italia, limiti temporali Ottanta. Quindi non ci occuperemo della mafia dell'Ottocento, non ci occuperemo di Cosa Nostra nello stesso periodo di tempo, non ci occuperemo dei rapporti con la mafia albanese negli anni 90. Quindi stiamo definendo, quindi prima di tutto definiamo l'oggetto della nostra tesi, vediamo lo stato dell'arte, formuliamo il quesito. Il quesito in genere può essere di tre tipi. Allora, ho il problema qual è? Dobbiamo definire un fenomeno. È l'ipotesi più complessa, più sofisticata, per esempio quando noi arriviamo a formare l'idea di rivoluzione criminale. Ora, l'idea di rivoluzione criminale, pensateci bene, perché nel definire un fenomeno, tu a che cosa ricordi? Beh, la cosa più semplice è prendere le parole degli attori. Gli intellettuali, usando questa espressione inadatta all'epoca, del 400 parlarono di rinascimento. Lo usano loro questa espressione per dire c'è stata una società, un'epoca dell'oro che è stata l'età antica, poi c'è stato questo sprofondo che è stato il medioevo, adesso torniamo, rinasce la civiltà. Però con una dialettica un po' particolare, perché Petrarca è quello che introduce il termine di modernità, di modus. La modernizzazione, proprio il concetto, parte da Petrarca. Per cui è la ripresa dell'antico, però proiettato, abbiamo evitato una caduta di civiltà. Adesso riprendiamo la civiltà e riportiamo avanti il discorso, più o meno. Lì in questo progetto c'è già chi lo dichiara, lo chiama Rinascimento. Oppure per esempio il Risorgimento, anche se ironia della storia, la parola Risorgimento per prima volta, per primi la usano gli austriaci, che pensano a una rinascita dell'Italia, però sotto leggi d'austriaca, che non erano molto d'accordo poi sullo sviluppo che sarebbe stato dato all'inizio. Allora, in qualche caso è il protagonista, sono gli attori che chiamano il fenomeno in un certo modo. Qualche volta sono i contemporanei o gli immediati posteri che chiamano rivoluzione francese, no? Quello che era avvenuto. Oppure per esempio la rivoluzione inglese, che però viene subito chiamata, quella del 1688-89, Glorious Revolution. Glorious perché non taglia nessuna testa. E qui però attenzione, c'è un problema. C'è chi dice c'è stata una rivoluzione cattivella, quella del 1628-40, che è quella che taglia la testa al re. E poi c'è stata una rivoluzione buona, che è quella del 1680, del febbraio 89, che è la Glorious Revolution. C'è qualche altro che dice, ma che minchiate state dicendo, un unico ciclo rivoluzionario che ha, c'è un'unica rivoluzione inglese che ha un momento di controrivoluzione con la restaurazione della monarchia stuartiana e che poi però c'è una crisi di rigetto che porta in fondo a non avere bisogno della violenza, perché ormai la cosa è così maturata che la mela cade dal ramo, ma la mela cade dal ramo perché abbiamo cominciato da prima tagliando la testa al re. E il secondo re, prima che si renda necessario la cosa, pensa bene di... Quindi non ci tagliano la capa, anche perché lui sottrae la testa al patibolo giusto in tempo. Cioè, quindi non mi venire... Allora, vedete come già in questo ci sono due letture diverse. C'è chi dice c'è una rivoluzione inglese in due tempi, c'è chi dice no, ci sono due rivoluzioni inglesi e conte fra di loro. Alla stessa maniera in cui c'è chi vi dirà che la rivoluzione americana inizia e finisce in un certo periodo, e guardate come la il problema della periodizzazione è importantissimo, c'è chi vi dirà la rivoluzione americana inizia verso il 1770, culmina poi nella battaglia del 1676, per cui vengono sconfitti gli inglesi, eccetera. E ve ne parlerà come una rivoluzione abbastanza economica, per esempio, dal punto di vista del sangue. Beh, fa giusto le vittime che deve fare, ma insomma. C'è chi vi dirà: no, non è proprio così il fatto, perché in realtà poi c'è un tentativo inglese nel 1812 di riprendersi la colonia con di mezzo una colonia. E fra le due date, in quei 36 anni, gli americani saldano il conto ai collaborazionisti e ci vanno giù pesanti. C'è chi vi dirà, no, la rivoluzione americana è un grande ciclo che parte negli anni 70 e 700 e finisce con la guerra di secessione. E va letta come fatto unitario. Ora, voi vedete che già nella definizione del fenomeno e già c'è un problema storiografico, c'è chi identifica il fenomeno come tre fenomeni disgiunti, c'è chi dice no, è un unico ciclo logicamente aperto e concluso in questo ambito, c'è chi dice no, c'è un primo ciclo e poi c'è un'altra storia che è indipendente, cioè, ci sono diverse. Questo è l'aspetto dell'identificazione del fenomeno. Anche perché, cari ragazzi, c'è un problema. Noi non conosciamo la storia, noi conosciamo la sua rappresentazione. Dopo, quando parleremo delle fonti, delle cose, vi renderete conto del fatto che l'illusione positivista di raggiungere una perfetta corrispondenza fra conoscenza e fatti e non è proprio così. Purtroppo la storia, c'è una corrente scettica che arriva fino ad oggi a Paul Venn eccetera, che è quella che dice no, ma guarda, non perdete tempo, la storia non è una scienza, non avrete mai una conoscenza vera dei fatti, è un racconto, ma non è. Ma anche senza essere così scettici, in realtà la storia è il libro, è il racconto, è la non è. Poi il libro cerca di essere il racconto di fatti realmente accaduti, come dice Voltaire. Non è detto che però la nostra conoscenza dei fatti sia corretta, priva di errori, completa, ometta qualcosa, o per certi versi ridondante, cioè aggiunga qualcosa che magari non è accaduto. No? C'è uno che fa una provocazione intellettuale, che poi è Foucault, dice, insomma ragazzi, ma immaginiamo una cosa. Immaginiamo che un Dio in vena di scherzi crei un mondo e crei la memoria di una serie di avvenimenti mai avvenuti in un mondo creato 5 minuti prima. La memoria sarebbe quella di un mondo che è durato molto di più, ma in realtà tu lo hai creato 5 minuti fa. Questo esempio potrebbe sembrare fantasioso. In realtà voi pensate a un computer nel quale tu immetti una serie di dati che si creano una memoria di cose non vissute, perché il computer è stato. In realtà io ci vedo una provocazione un gusto del paradosso in tutto questo, però un fondo di verità ci sta. Cioè, la nostra memoria non è detto che sia vera, completa, che ha sufficiente senso a profondità, per cui la conoscenza storica inevitabilmente si costruisce per approssimazioni successive. Questo è inevitabile. Gli errori non sono degli incidenti di percorso, sono delle fasi attraverso cui spesso bisogna passare. Perché probabilmente un errore a un certo punto, rivelandosi come tale, ti permetterà una comprensione più alta. E la storia, per questo la storia non è mai conclusa. La storia lo storico è sempre revisionista. Intanto perché pone quesiti sempre diversi e poi perché magari improvvisamente si è resa disponibile una tecnologia, il C14, che ti permette una datazione più precisa delle fonti che tu prima non avevi, e quello ti cambia completamente tutta una serie di cose che avevi pensato. Può succedere, fa parte della storia. Tutto sommato, a pensarci bene, non è solo la storia che ha questo problema. Tutte le discipline scientifiche procedono in questa maniera, anche il pensiero matematico ha i suoi errori e le sue cadute. In fondo, il compagno Galileo aggiustò i calcoli sulla caduta dei gradi, perché in realtà lui non sarebbe mai riuscito a dimostrare all'epoca, sulla base delle conoscenze che aveva, la sua tesi. Lui la dimostra perché corregge in qualche modo i dati e riesce a... Quindi, come vedete, in qualche modo ci si arrangia un po' in tutte le discipline. Allora, prima fase della definizione, primo tipo di quesito storico. Che cosa vogliamo fare? Identificare un fenomeno, per esempio. Secondo tipo di quesito. No, noi non vogliamo identificare un fenomeno. Noi abbiamo il bisogno di sapere com'è andata. Cioè, allo stato attuale noi non sappiamo un certo episodio. Chi ha messo la bomba a Piazza Fontana? C'è ancora da rispondere a questo quesito. Noi non sappiamo, abbiamo delle ipotesi, non abbiamo delle certezze, oppure non abbiamo manco le ipotesi. Ora, per esempio, su Piazza Fontana io mi sento di dire che abbiamo raggiunto un livello di conoscenze discreto, cioè ancora ci sono tutta una serie di pezzi che non sono molto chiari, però insomma, tutto sommato. Viceversa, nel caso della strage di Bologna o di Ustica, credo che stiamo ancora alla notte molto nera in cui non si capisce una mazza. Quindi il problema di come è andata, secondo tipo di quesito. Terzo tipo di quesito, com'è andata grosso modo lo sappiamo. Il fenomeno, l'episodio che stiamo studiando è incluso in un fenomeno la cui identificazione ci soddisfa, però vogliamo capire le cause. Perché è successo questo? E il contrario di questo quesito è le conseguenze. Che seguito ha lasciato questo episodio? Quali sono le conseguenze? Questi sono i tipi di quesiti che noi in genere ci facciamo quando definiamo il quesito storiografico. E qui arriviamo a un punto. Ma sulla base di che cosa noi riusciamo a decidere? Uno, se il tema è importante. Due, se il tema ci cambia qualcosa. Tre, che conseguenze ha avuto sto tema? Per dire tutto, non c'è che un modo. Il metro di misura è il presente. Unica cosa sensata che ha detto Benedetto Croce, la storia è sempre storia contemporanea. Perché qualsiasi cosa stai andando a indagare, la stai andando a indagare dalla tua contemporaneità. Alla fine il quesito più o meno dichiarato, se sei uno storico e non sei Antonielli, e qual è? Il quesito è: ma che cazzo c'entra questa cosa con noi, col presente? Cioè, quello che tu stai andando a raspare è in qualche modo qualcosa che ti spiega il presente. Perché la storia, non ci sono santi, è un seguito di nessi causali, di episodi che hanno avuto delle cause e che a loro volta sono stati cause di altro. Poi verremo al discorso della spiegazione. Per adesso chiariamo questo punto. In questo senso, la prima cosa che si richiede allo storico è capire la sua epoca, la prima cosa che deve studiare prima della storia, perché non è detto che la spiegazione del presente stia nella storia più recente. Certo, se tu stai studiando un particolare problema, è probabile che le radici di quel problema siano da cercare nel passato più recente, al massimo un po' più in là. E però dipende, perché se stai studiando, faccio un esempio, il problema della diversità di civili, del perché non ci capiamo coi cinesi su tante cose, e lì devi andare a studiare le radici delle due diverse civiltà e ti devi spingere molto indietro nel tempo. Quindi dipende dall'argomento. Se l'argomento è un argomento così vasto, di grande portata, mica lo risolvi con la storia degli ultimi 100 anni, hai voglia di scavare indietro. Quindi questo non è un modo per dire è importante la storia contemporanea, la storia antica, medievale, moderna, chi se ne frega. No, perché radici di determinate cose possono spingersi molto indietro nel tempo, qualche volta anche addirittura particolari minimi, anche scemi. Tu puoi scoprire con una certa sorpresa che hanno radici molto lontane nel tempo, molto più di quanto non si creda. Un esempio stupido: quando uno sternutisce, beh, adesso si è persa un po' questa abitudine, ma si porta la mano alla bocca, vabbè, anche per evitare di far ridante, gli altri dicono salve o salute, no? Adesso non si usa più. Sapete qual è l'origine di questa cosa? Risale al 1300, alla grande peste, quella di cui parla Boccaccio, che era una peste che si trasmetteva per via, per inalazione, per via aerea. I batteri, era una peste polmonare. Per cui, e siccome si annunciava con uno starnuto, quel salve o quel salute era un augurio che tu non avessi la peste, perché tanti io saluti, sto anche vicino. Ma era anche l'idea dello speriamo che sia tutto bene. E voi pensate come questa cosa lascia un ricordo proprio a fuoco, per cui per secoli persiste questa abitudine. Viceversa, possono esserci altri episodi che svaporano molto più vicini, senza lasciare addirittura traccia di sé. È l'esempio, per restare nel campo delle epidemie, il caso dell'epidemia di spagnola, l'influenza spagnola, che si diffuse subito dopo la fine della guerra mondiale. 50 milioni di morti, non è uno scherzo, cioè più di quelli della guerra, concentrati in pochi anni, che dico anni, mesi, durò pochissimo. Ma cosa che ha lasciato pochissimo ricordo, e anzi addirittura della quale sono spariti anche i batteri, cioè i virus. Ci fu un tentativo, siccome c'erano alcuni cadaveri di morti di spagnola, in Alaska che per una combinazione erano finiti incapsulati nel permanent frost, nel ghiaccio, per cui in freezer praticamente. Li scongelarono per cercare di scomparso. Per cui non sappiamo più qual è il cacchio di virus che fece quel casino. Niente, è evaporata quella cosa. Pochi libri ne parlano, non c'è nessun ricordo, c'è stata una rimozione molto forte di quella cosa. Quindi vedete come può esserci due eventi del tutto simili, no? Nella loro ontologia, due epidemie. Una addirittura di sei secoli prima, va bene che fece la bellezza di 23-24 milioni di morti in un'Europa che ne aveva molti meno, cioè ammazzò qualcosa come il 25%, sì, quasi più o meno. Beh, in Germania arrivò anche al 35% l'epidemia sulla popolazione. Quindi vabbè, certamente uno shock, certamente una gioia, che ha lasciato tracce letterarie come il Decameron, come i racconti di Canterbury, quindi insomma c'è stata una memoria forte di quella vicenda. Una epidemia molto infinitamente più recente vicino a noi, comunque bella violenta, basta, non ha lasciato, non c'è un racconto letterario, non c'è una cosa, niente, rimossa totalmente questa cosa. Anche i vecchi, io ricordo che l'unica persona che mi disse che ricordava questa cosa con, diciamo, un certo, era mia zia Carmela, che aveva 20 anni all'epoca e che lo ricordava con dolore perché la donna che di servizio che avevano loro, la lavandaia che avevano loro a casa e che era la leader delle donne socialiste del paese, che era un nonnone alto e piazzato che portava la bandiera rossa a tutte le manifestazioni, eccetera, eccetera, morì durante questa epidemia, si chiamava Eugenia, e zia Carmelina la ricordava con molto affetto, eccetera, eccetera, e mi ricordava lo shock di averla vista caricata sul carretto, il cadavere che portavano via. Unico ricordo che io abbia sentito. Da altre persone della stessa età, eccetera, non ho mai sentito parlare di quell'epidemia. Ecco, due esempi di come, guardate come la memoria gioca degli scherzi, per cui c'è qualcosa che rimuove, qualcosa che lascia, qualcosa che dura nel tempo. Allora, nella formazione del quesito, il rapporto è, ma che c'entriamo noi con quell'episodio? Facciamo un esempio. Oggi fare un libro sull'epidemia di spagnola forse potrebbe essere anche interessante per vedere se ha avuto conseguenze sociali, se non ne ha avuto, ma vai a vedere che era. Però probabilmente, diciamo la verità, questo libro quante copie venderebbe? E anche giustamente, perché sarebbe più lo sfizio di uno storico che vuole indagare un episodio, una cosa, vabbè, d'accordo. Immaginate se all'improvviso invece dovesse manifestarsi un virus con caratteristiche fortemente analoghe a quello, perlomeno nei sintomi, perché noi il virus non ce l'abbiamo, però nei sintomi, nell'andamento dell'epidemia, eccetera, eccetera, dovesse improvvisamente manifestarsi qualcosa di fortemente comparabile a quello. Improvvisamente voi scoprireste un interesse, non solo medico, ma anche storiografico della società per quell'episodio. Che è successo? Perché c'è stata quell'epidemia? Che conseguenze ha lasciato? Perché il ricordo è sfumato? Ecco, quindi la prima cosa che lo storico deve capire è il suo tempo. La prima cosa, quando, non mi ricordo se Marc Bloch o Lucien Febvre, ma credo Marc Bloch, viene portato a Nantes Bloch, e gli dico: ti portiamo al museo. Quello dice: no, portatemi al mercato, io voglio capire come, cioè da storico voglio capire prima di tutto come funziona il vostro mercato oggi, poi lo porto al municipio, eccetera. Il museo, sì, vabbè, non è quello il problema, non scappa quello. Ecco, il vero storico ha questo tipo di curiosità. Il vero storico è quello che deve prima di tutto storicizzare il suo presente. Perché vedete, ragazzi, contrariamente a quanto si crede, la storia non è lo studio del passato. La storia è lo studio dell'uomo nel tempo. Quindi a cominciare prima di tutto dal tuo tempo, di cui devi capire le caratteristiche, i problemi, le angosce, le aspettative, i desideri, i bisogni. Da questo punto di vista cominciate a capire una cosa, che la storia o ha una funzione, se volete, pratica, o non ha senso. Se la storia è pura narrazione, vabbè, può andare bene per l'intrattenimento, per una chiacchierata all'osteria la sera, e a quel punto la storia del Milan, la storia del Partito Comunista Italiano e la storia dei Ming in Cina, una cosa vale l'altra, cioè non c'è un motivo per pensare che la storia del Milan sia meno importante della storia della rivoluzione russa. Fosse l'Inter, stai parlando di tutt'altro, no. Capisci? Cioè, non c'è motivo. Qualsiasi cosa, la storia di mio nonno vale la storia di Napoleone. Tanto a quel punto tu scavi nel passato perché hai delle domande a cui devi rispondere, perché altrimenti che cacchio lo fai a fare? A quel punto puoi anche non occuparti di storia. Che guardate, una cosa del nostro tempo, a proposito, è una cosa su cui vale la pena riflettere. Quando io ero ragazzino, noi giocavamo con i soldatini. C'era una produzione di film storici che andavano dagli antichi romani alle campagne napoleoniche, alla seconda guerra mondiale, una boffata. Uscivano riviste di storia, c'erano i primi giochini del tipo wargame, però con le pedine di carta, eccetera, eccetera. Il Partito Comunista prendeva il 30% e gli asini volavano. Il socialismo era come l'universo, l'espansione. Noi avevamo una formazione fortemente storica e una sensibilità storica. Nessuno di noi avrebbe messo a giocare insieme dei soldatini nazisti con dei pelle rosse. Perché tu appartieni a generazioni diverse. Perché appartieni a una generazione diversa, non hai questo tipo di. Perché capivamo che i nazisti con i pelle rosse non c'entrano niente. Per le generazioni successive vengono allevate con un prodotto culturale completamente diverso, che sono i manga giapponesi, quelle cose, che sono tutte cose fantastiche. È un ritorno, se vuoi, della favola, pure molto. Oppure, per esempio, c'è tutto un immaginario che comincia con la trilogia L'Impero colpisce ancora, sì, Guerre Stellari. È forse il primo film di questa cosa che mescola medioevo e futuro, per cui ci sono le astronavi, però ci sono persone vestite come nel medioevo, poi ci sono i pirati, tutto in un presente, un po' fantascienza, ma questa cosa che vive in un eterno presente, fuori della storia, fuori del tempo, un presente astorico in cui dei pirati del 600 possono incontrarsi con le guardie dell'impero, che sono dei robot blindati, oppure con gli allegri compagni della foresta, la Robin Hood. Ecco, per esempio, le vostre generazioni sono state allevate da questo tipo di prodotto culturale, quindi non hanno sviluppato tanto un senso della storia come scienza del tempo, come cronologia, per cui se c'è una cosa già non puoi mettere Napoleone a giocare con Giulio Cesare, non c'entra un cazzo. No, c'è invece un ritorno del mito, della favola, in un presente astorico, per cui c'è molto la fantasy, no? Come argomento. E quindi, per esempio, hai una generazione che ha un senso storico molto più debole, molto meno sviluppato. Ecco, per esempio, questo è un modo per capire come avere rapporto, perché recuperare quest'idea della storia come scienza dell'uomo nel tempo, a cominciare dal proprio tempo. Per cui può esserci una storia del futuro? Se io avessi detto una cosa del genere al mio amico Alceo Riosa, sarebbe inorridito, mi avrebbe cacciato dalla stanza, mi avrebbe detto parisci, no? Tu figurati che Alceo sosteneva non si può fare la storia di ieri, perché mancano i documenti, perché... In una certa misura aveva ragione, perché ieri ha una serie di dinamiche che sono ancora in atto oggi, che non si sono concluse. Io non posso fare la storia di una partita di pallone che non è ancora finita, però posso fare la telecronaca. Cioè, in altri termini, è ovvio che la storia del presente o la storia del futuro si possono fare, ma evidentemente sono cose diverse dalla storia del passato. Sempre storia come scienza dell'uomo nel tempo è, però un conto è se stiamo parlando di cose che sono accadute e per definizione non sono più modificabili. Un conto è se parliamo di cose che sono in atto, quindi lì io devo capire quali sono le radici e quali sono le proiezioni. Un conto è se io faccio, tra virgolette, una storia del futuro intesa come proiezione di tendenze, che naturalmente possono anche essere smentite, possono essere anche contraddette, possono modificarsi perché appunto non sono ancora accadute. Si tratta di cose diverse fra di loro, non c'è dubbio. Qui però capisci una cosa: che cosa distingue lo storico dal sociologo, dal politologo, dall'economista? Il sociologo, il politologo e l'economista in genere si occupano, non hanno un problema di dimensione diacronica. Al massimo, se fanno della comparazione, hanno un problema di dimensione sincronica. Confrontiamo la Costituzione italiana di vigente con quella cinese vigente, con quella americana, va bene? Qualche volta anche gli storici, anche i politologi e i giuristi, e perfino quelle bestie oggi, che sono le persone culturalmente più sprovvedute che l'umanità riesca a concepire, avvertono confusamente l'esigenza di un'indagine storiografica precedente, perché in fondo Weber, che era una persona seria, parlava di metodo storico delle scienze sociali, cosa che purtroppo loro non riescono più a capire. Però qualche volta nelle latebre del loro pensiero si afferma l'esigenza di andare a vedere un po' prima qualcosa che è successo. Ciò non di meno, cioè quello che contraddistingue. Voi prendete per esempio i testi di Bloch, di Bauman, di Beck, volevo dire, di Bauman, sulla globalizzazione, che sono interessanti, perché allo storico che deve capire il suo tempo, vi assicuro che è una lettura che serve, che come tutte le letture va smontata, va il giocattolo va scomposto, va smontato, va digerito, e poi magari una parte va utilizzata, una parte va buttata via, vabbè, insomma. Però ecco la caratteristica qual è: la veduta corta del sociologo, che non è capace di vedere troppo indietro e di conseguenza non sa vedere troppo in avanti, che descrive più che spiegare, che è il pittore del proprio tempo, lo disegna, lo schizza. Lo storico, inevitabilmente, se è uno storico, se è una persona seria, se sa fare il suo mestiere, deve avere la veduta lunga, per forza. Si deve sollevare sulla punta dei piedi e lanciare lo sguardo il più possibile indietro e in avanti. Deve capire che cosa è successo per capire le cause, deve guardare in avanti per individuare le tendenze. Compito dello storico è sempre individuare le tendenze che hanno fatto la storia. Quale, Marco? Le tendenze. Appunto. Allora, se diciamo la imposto in questi termini, capisci come non può che essere il presente, è proprio l'anello come in una farfalla, è il centro di due proiezioni, una indietro e una avanti, dell'indagine. Allora, prima di tutto la discussione deve essere: ma questo presente cos'è? Poi può diventare: che cosa lo caratterizza, perché è così? E dopo il discorso può diventare: quello che stiamo facendo, che seguito lascerà? Ad esempio, una cosa della quale mi vado convincendo sempre di più è che noi passeremo la storia, la mia e quella immediatamente successiva, come le peggiori generazioni che la storia abbia mai avuto, per quello che lasciano dietro di sé. Noi lasciamo dietro di noi un lascito proprio di debiti di tutti i tipi, di denaro, di debiti ambientali, di debiti di giustizia sociale, lasciamo monnezza e macerie. Ed è una cosa della quale devi chiedere perché. E chiederti soprattutto come faranno le generazioni future a mettere una pezza ai disastri che gli lasciamo in eredità. In qualche modo, diceva Bloch, e in Italia lo riprende molto Quazza, ogni generazione ha il diritto di essere la prima a scrivere la propria storia. Per molte ragioni, un po' perché quello servirà di guida anche a chi viene, perché in qualche modo l'autorappresentazione che tu dai della tua esperienza storica, di vita individuale, di gruppo, è in qualche modo un pezzo di storia da esaminare. E poi perché è giusto che ognuno in qualche modo faccia anche un bilancio di tutta la sua precedente esperienza. Il che appunto conferma che la storia è scienza del passato, è scienza dell'uomo nel tempo, perché se ogni generazione deve essere la prima a fare la propria storia, non può che fare la storia, non dico del presente, ma vogliamo dire del passato prossimo, cioè appunto di ieri sera. Devi farla, naturalmente ha le caratteristiche della storia di prima generazione, quindi ha dentro una componente forte di emotività, ha una componente forte di autogiustificazione, di compromissione politica, di tentativo di tutti quanti di mettersi in bella copia. Sarà sicuramente la storia meno laica possibile, sarà la storia in cui c'è un oggi, oddio, ci sono anche maniaci di questo tipo, ma insomma, che uno storico si appassioni a dar ragione a Guelfi o Ghibellini o ai Guelfi bianchi o ai Guelfi neri, ma insomma, se non è proprio un maniaco, è difficile che abbia di questo genere di passioni. Insomma, poi stanno quelli anche che si eccitano di fronte al quadro di una persona guercia, va bene, ma in genere non succede. Un disagio. In genere non succede. In genere non succede. No, sono che dice una donna necchia, Madonna mia, mia. De gustibus, come si dice in barese? Che è una femmina necchi, Madonna mia, vabbè, de gustibus. Però in genere non è così, mentre invece se tocchi un tema come fascismo e antifascismo, ancora oggi non riesci ad avere, ed è ingiustificabile perché ormai veramente quella è storia, ma non riesci ad avere un atteggiamento di distacco perché c'è un'immediata radicalizzazione. Permettimi un inciso, che i compagni di Demos per le elezioni universitarie dei prossimi mesi hanno coniato il loro slogan: l'antifascismo è futuro. Ancora? Sì. Quindi avremo ancora il fascismo nel futuro? Chi è? Cioè, una sfiga della Madonna. Stiamo facendo di tutto per liberarcene questi rompicoglioni. Cioè, si direbbe che questi hanno bisogno dei fascisti per poter essere antifascisti. Certo. Oh, santa Madonna. Madonna me. Ecco, per esempio, questo è un esempio di come non si riesca a venirne fuori da... Dopo Gramsci vota Demos. Dopo Robespierre. Dopo Robespierre vota Demos. Più che altro Robespierre. Allora, ecco, nella definizione quindi del quesito storiografico a quale vogliamo rispondere, molto ci sarà la mossa del... A che ci serve saperlo? Quindi la storia, guardate, ha una sua motivazione molto pratica. è molto meno scienza gratuita di quanto non sia. Già in generale l'uomo non fa ricerche scientifiche gratuite, perfino la matematica, che può essere la cosa più autoreferenziale che possa esistere, e però prima o poi Fermat ha tirato fuori degli algoritmi che per un secolo e mezzo, 600 anni, poi a un certo punto dicono: cazzo, ci facciamo le carte di credito, i bancomat, eccetera. Quindi sai, generalmente l'uomo non tende a non porsi problemi che non può risolvere. Se si pone il problema è perché sia pure la sensazione di poterlo risolvere ce l'ha, e tende a non porsi problemi che gratuiti. Se lo fa, lo fa perché una qualche finalità ce l'ha. Filosofia, posso dire che parlavo di uomini. Ma vedete, per esempio, la cosa più inutile, apparentemente più inutile, la teologia. Parliamo di una cosa totalmente, e no, in realtà anche quello ha un'utilità molto netta, perché di solito l'uomo parla molto di Dio quando parla di se stesso, quando deve fissare la sua identità. Guardate che ogni modello di civiltà ha alla base due cose: il ceppo linguistico e la religione. Sono le due cose che definiscono un modello di civiltà. Il che significa fondamentalmente una cosa: significa che l'idea di religione è l'idea di uomo, la teologia fonda l'antropologia, è la concezione dell'uomo che hai. Il salto dalla religione naturalistica alla religione mitologica, dalla religione mitologica alla religione monoteista, eccetera, sono tutti altrettanti salti di civiltà che in qualche modo prefigurano in questa specie di tela immaginaria il tuo progetto di uomo, di società. È questo. Non è perfettamente un caso che noi veniamo da una religione monoteista e quindi abbiamo una logica binaria, vero o non vero. I cinesi non hanno una religione di tipo monoteista, hanno una religione di tipo sincretico, e hanno una logica che non è di tipo binario, ma è una logica farsi sfumata. E beh, sarà uno dei, che è uno dei motivi per cui ci capiamo fino a un certo punto. Ecco. Bene. Quindi la storia ha una sua funzione pratica, ma se ha una funzione pratica, deve in qualche modo caratterizzarsi con scienza. Cioè, la sua conoscenza deve avere, io non dico la certezza, perché perfino Popper, che Popper ci ha insegnato che qualsiasi scienza è su palafitte, e quindi alla fine c'è sempre qualcosa che verrà abbattuto e falsificato, però ricostruiremo un altro pilone su cui faremo un'altra palafitta, vabbè, andiamo avanti in questa maniera. Però insomma, il sapere scientifico una sua fondatezza deve averla. Non voglio dire una sua infallibilità, una sua oggettiva e sicura corrispondenza al vero che resterà tale in eterno. Alla fine Prigogine ci ha insegnato che perfino le leggi naturali hanno una storia nel tempo e cambiano, quindi vabbè, ok, però almeno una loro plausibilità, dimostrabilità, falsificabilità devono averla. E qui veniamo a un problema: che strana scienza è la nostra. C'è sempre stata una corrente scettica che ha avuto l'atteggiamento del tipo: ma che cazzo volete dire, la storia non spiega niente. Per esempio, ancora recentemente Paul Venn, questo antichista francese, questa è una cosa che appassiona molto i francesi, secondo me c'è il fatto che i francesi hanno avuto una splendida letteratura che li ha maledettamente influenzati, per cui c'è tendenzialmente sempre il fatto che la letteratura tende a riprendersi la storia. La storia in fondo parte come costola della letteratura, come racconto del mirabile, del meraviglioso, di quello che va a ricordare il l'Erarum Gestarum, no? Spesso un po' mito, un po' poi se n'è distaccata, però tendenzialmente ogni volta c'è la corrente degli scettici che dice: ma scusate, non abbiamo nessuna certezza che i documenti che abbiamo siano completi, anzi sappiamo che sono incompleti. Non abbiamo nessuna certezza che fra i documenti che non abbiamo non ce ne siano di determinanti per capire, ma soprattutto, Andrea Sacco, anzi, i documenti il più delle volte hanno un problema, il problema di essere più delle volte documenti intenzionali voluti per prendere da parte di chi ha vinto. Quindi di per sé la maggior parte dei documenti sono di parte, sono, è di una parte particolare, quella che ha vinto. Ma poi, dice Paul Venn, dice: ma scusate, la storia si presenta sempre come un intreccio inestricabile di cause, di concause, di eventi, di conseguenze. Non c'è mai, certo, la storia non è una scienza sperimentale. Io posso dire che ogni corpo è lasciato a sé stante perché posso ripetere questo cacchio di esperimento tutte le volte che voglio e questo corpo continuerà a cadere. Nella storia io non posso fare l'esperimento di rifare la battaglia di Waterloo. Anche se è un po' costoso, sarebbe noioso per i 60.000 morti, poveretti. Posso attaccare di questa storia. La scienza possiamo sacrificare. Li pigli la lapide. Se sono i 60.000 che dico io. No, oh, capì? Però no, non lo posso fare perché comunque se anche trovassi 60.000 teste di cazzo da immolare, che sarebbe un fatto positivo che si impurasse a spawn, però c'è un problema che non è, che sarebbe un altro evento, non sarebbe quello, perché sarebbero diverse le persone, perché sarebbe diverso il clima, perché sarebbe diversa la casualità, perché per 10.000 cose sarebbe un altro evento, non sarebbe lo stesso evento, anche se io tento di riprodurlo nel modo più somigliante possibile. La storia è fatta di eventi unici e irripetibili, quindi per definizione non è scienza sperimentale. E però è anche vero una cosa, che mica tutte le scienze, anche le scienze naturali, mica tutte sono di natura sperimentale. L'astrofisica, che facciamo? Ci mettiamo a fare gli esperimenti con i pianeti? Anche la fisica quantistica. Appunto, come cacchio fai? Come fai? Prova. La quantistica è un po' di più. Vabbè. Lì ci sono esperimenti che si avvicinano, però non sappiamo una storia. Ma tu pensa all'astrofisica, che facciamo? Andiamo a dire a Marte: su, ti spiace andare indietro anziché andare avanti? Mi sono perso una sequenza. No, per cui scienze di carattere non sperimentale ce ne sono. Non è che la nostra è una scienza che tende a essere piuttosto una scienza di carattere logico. Lì poi dovremo capire che cos'è logico e quindi come avviene la spiegazione. Sicuramente la nostra è una scienza non solo non sperimentale, ma che si basa a basi molto fragili, come le fonti storiografiche, che hanno i vizi che abbiamo detto di corruttibilità, di imprecisione, di falso, di incompletezza, di parzialità. E non sempre noi abbiamo, anzi più delle volte noi non abbiamo tutte le fonti che vorremmo avere per definire una qualsiasi vicenda storiografica, ed è un motivo per cui appunto la storia si fa per approssimazioni successive, ed è uno dei motivi per cui la storia è quello che sta nei libri, non è il fatto, è la rappresentazione che noi ci siamo fatti di quel fatto attraverso i documenti che siamo riusciti a trovare, attraverso le fonti che siamo riusciti a trovare e attraverso il metodo con cui le abbiamo interrogate. Questa diversità fra l'oggetto e la sua, il suo studio resterà sempre. In realtà anche un libro di fisica in qualche modo non è l'evento fisico, ma la sua descrizione e la sua spiegazione. Però l'evento fisico ha dalla sua la sperimentabilità, che noi non abbiamo. Non solo, ma l'evento fisico io posso riprodurlo facendo tacere tutti gli elementi ultronei. Se io voglio fare un esperimento fisico, che cosa faccio? Faccio tacere tutto il resto, isolo le componenti che mi interessa, produco un certo movimento, una scossa elettrica, qualcosa c'è, e vedo che cosa succede. Per spiegare la lotta di classe io non posso dire: senti, facciamo una cosa, togliamo la piccola borghesia, non conto un cazzo, togliamo i parassiti, togliamo, lasciamo solo la grande borghesia e il proletariato e vediamo ci venge. Non lo posso fare, capito? E magari poi ripetiamo l'esperimento per vedere ci venge sempre conto. In genere c'erano sempre gli altri, vabbè, ma insomma. E questo non lo posso fare, capisci? Per cui è evidente che io non posso fare altro che ricostruire nessi causali logici. Ecco perché la nostra... Però questo non significa che la nostra non sia una scienza. È evidente che i fenomeni storici si presentano sempre come intreccio, perché appunto non posso far tacere tutte... Il rumore di fondo fa parte dell'avvenimento storico e non lo posso sopprimere, va bene? Anche se molto spesso sopprimere degli elementi, diciamo, ultronei, eccetera, sarebbe anche positivo, però purtroppo non si può fare. Allora, quindi, come diceva, la storia è intreccio, però attenzione, lui dice, alla fine quello che conta è nella narrazione dell'intreccio che tu hai visto. Poi è vero, non è vero, rinuncia all'idea di spiegare. Già, però se rinuncia all'idea di spiegare, puoi narrare? Consentitemi un attimo, arrivo subito. Devo fare 5 minuti di pausa. Cosa vuoi dire? Cioè io penso comunque sono la narrazione resta la lezione più figa. No, io non ho la capacità di parlare di classe. Cioè, secondo me questo è un po' ideologico come posizione. Ma io passo. Ma non so cosa fanno, ma non so cosa fanno. Vabbè, stoppiamo. Ma che bello. No, sono un coglione. Registrato da sono un coglione. Poi questi problemi si fanno la didattica della storia. Ma cazzo devi dire? Sì, la didattica della storia. Ma io ho fatto didattica e mi sono detto Locke. Che cosa? Chabot. Io sto leggendo. Io non c'ho libri, abbiamo parlato. Io sto leggendo Bordello. Figa, finito pure la roba. Io intanto non ti posso aiutare perché ho la sospensione della biblioteca del mese. Ma io parlo. Anche se adesso sulla storia di Carla. Perché eravamo perché siamo proprio. No, perché non abbiamo calcolato. Ho letto Bloch, Chabot e Bordello. Noi l'abbiamo portato anche giusto secondo la storia. Ah, vanno riportati prima della scadenza. Vanno a parlare in 15 giorni. Scusa, non ci sbatte di muovermi. Ma non ci aspetta di me. Io lo sapevo. Neanche io, perché l'altra volta ce li aveva presi Daniela. Ma io vedo un caffè. Detto che avessi un caffè. Sì. Tu vuoi un caffè? Fai un'altra spedizione? Sì. Mi chiedi per 10. TVB. Posso giro che mi dovete finanziare, ma dai, sei un pazzo. Sei un pazzo. Vabbè, io soldi non te li do. Io non ce li ho. Tu riesci a anticiparmi un euro? Perfetto. Ma no, giustamente, perché sennò non arrivo a 10. Io ho con calma. No, vabbè, se okay. Io parlo di nuovo ne paghiamo con calma. La mia soldi è meglio. Ci guarda centesimi. Dai, dai, comincia da me. Tanto prendo due. Mica, mi vedo che sei sempre a carico tuo, le 730. Sì, figlio a carico, sono io per l'altro. Ma non è sul video. Ho finito il foglio da un po'. Mica, tra l'altro, grande onore a Sara Troglio che è venuto. No, dovevamo invitare Dalma. Secondo me. Bene. Sono finiti. Scattata la pausa sigaretta. Che pausa caffè. Dai, riusciamo a prendere un po' d'acqua. Sì, che poi su dopo gli chiamo adesso. Ma io non posso parlare tanto. Oh yeah. Non voglio avere opinione. Io non l'ho. Qua. Insegnami la strada. Ma cosa peggio. Vabbè, però la luce era giusta. Beh, lo so, però è ancora peggio. Lo so. Sono d'accordo. Ma con dammi un caffè, va. Sono d'accordo con che ormai posso dedicarmi. Veri inaccettabile. Ah, ragazzi, ci voleva. No. Chi è che manca? Beh, Ciro lì che si sta autisticando. Cosa vuoi? No, non mi ricordavo. No, no, te non c'ero. Volevo andare in bagno. No, io non ci sono. Noi quattro. Chi siamo? Per lunedì? Noi quattro più Sara ed Erika. Quindi sei, io sette, tua mamma otto, nessun altro? Direi di no. Ah, dove peccato, non ho fatto in tempo a chiederti se posso prendere un osso per la cagnolina di rimpettaglia. Non so se c'è, chiederò. Anche di solito cascina a me a Pasqua è sempre buono. Il problema è che mo dove lo piglio l'osso? È sabato. Stacco la zia. Accogliamo un magrebino su perché ma se tornando faccio in tempo vado a Botanic che ha le ossa un po' particolari perché ha le ossa così di femore di cavallo che erano la felicità di Rania la cagnolina di Edo che si metteva proprio abbracciava questo vabbè, vabbè. Allora facciamo tutto come si deve. Dai che si rifiglia. Mo dobbiamo andare in bagno. Ma non c'è un caffè. Siete incontinenti. A due. Giulio, sì. Io. Ah, uno. Dammi un po' d'acqua. Tutti, tutti al centro. E dopo il caffè ci sta bene. Sì, Guido, ma tu devi intervenire alla presentazione del libro su Ratzinger e Fra Dolcino? Beh, ti chiederanno di intervenire. Quando è? No, ho preso un caffè anch'io. Il 20... Sì, no, basta. Non so perché continuo per 3 che siamo in giro. Tino, smettila. Quanti ne hai bevuti oggi? 4. 3. Questo quattro. È il terzo. No, no, è vero, prima sono sempre bevuti. Siamo sterzati. Questo è il quarto. Perché, vuoi metà? No, vabbè. Se è il quarto te lo concedo. Grazie. Però bevi troppi caffè. Sì. Vabbè, martedì 17 aprile, alle ore 18. C'è congresso di Papa. Quindi martedì non questo, l'altro. No, comunque ragazzi, se anche lui sì, ammette, se anche Ratzinger ammette che c'è la crisi, che la Chiesa versa in una crisi gravissima, vuol dire che sono veramente nella merda. Però ragazzi, non so quanto sia una crisi, diciamo, una crisi strutturale, cioè sicuramente perché la fissazione del celibato ecclesiastico nel mondo del 2000 è una follia, quindi questo gli incoraggia i casi Gesù, di pedofilia e vabbè, d'accordo. Dice Gesù che bisogna amare soltanto Dio. No, veramente Gesù non ha mai detto la famiglia. No, Gesù non ha mai detto questo per la verità, sì, che l'ha fatto dire, ma nel Vangelo non c'è nessuna cosa che autorizzi questa stronzata. Anzi, semmai nel Vangelo l'idea fondamentale, che è un'idea che fonda poi l'identità dell'Occidente in parte, è l'idea della solidarietà e fraternità, che è una cosa che c'è in Occidente, non la trovi in India e in Cina. Si vede in India. E l'idea della solidarietà, della fraternità, fonda l'idea dell'eguaglianza. Tu prova ad andare a dire ai cinesi e agli indiani che siamo tutti uguali, per esempio un intoccabile, tu sei uguale a quello, cioè... cioè lì c'è questa, quindi proprio questa idea che dice Ratzinger non ci sta proprio, no. Il problema è che io non riesco a capire quanto c'è di crisi strutturale, che sicuramente c'è, quanto c'è di parola buona di altri che stanno accelerando, perché per esempio l'aggressività delle sette evangeliche in America Latina, che dura ormai da 25 anni, è dimostrato che sono abbondantemente finanziate dalla CIA, eccetera, prima perché c'erano con la teologia della liberazione, poi hanno cominciato ad essere incazzati proprio con la Chiesa cattolica. Tutte queste cose, stile il codice da Vinci, eccetera, queste fughe di notizia continue dal Vaticano, che sicuramente è un posto molto più di merda di quello che non ci raccontano, su questo sono convinto, sono convinto. Però tutte ste cacchio di rivelazioni a getto continuo, questi scoop continui sullo IOR, che è la merda che è. La però, informativa più grossa del mondo, come fa ad avere tutti questi buchi? Nessuno è perfetto. Perché proprio non perché la rete più articolata è quella che può anche pescare, beccare provocatori, informatori altrui, cioè può essere infiltrato. Sì, sì, certo. E se me più ti infiltri, più puoi essere infiltrato. Quindi No, volevo spostare il discorso su sull'intelligence. Intelligenza. Domenica sulla lettura, il nuovo inserto domenicale del Corriere. Mm. Non so se lo stai guardando, in realtà non ci sono delle cose. Sì. Non è orribile, secondo me. No, è decente, anche se resta migliore il sole. Sì. C'era un attacco frontale ai dietrologi. Sì, lo so. Sì, l'ho ritagliato. Di un livello scientifico, sì. Tutti i complottisti, che il complotto è una cosa che storicamente torna in auge, che però questi complottisti non hanno mai niente da dire. Ultimamente, ma non tra signora Gisti, scie chimiche e così via, e non so che altro. E invece c'era un bel trafiletto sul discorso del sudisti e meridionalisti. Sì. Sui danni che fa Pino Aprile con i suoi libri. Terrone. Ma sai che anche Fabio è un fan di Pino Aprile? Sì, ma lui aveva suggerito di presentare Terrone in università. Beh, sai che non sarebbe sbagliato. Perché, guardate, talvolta anche le tesi sbagliate vanno discusse proprio perché sono sbagliate. Proprio perché sono delle stronzate. Per fortuna, secondo me, sta finendo il ciclo politico della Lega, quindi questo che è lo speculare dovrebbe dissolversi. Del macello? No, vabbè, la Lega ormai. Ma cosa ne pensi? Che questa era un'operazione che ci avevano, appunto, l'eliminazione del dissenso, perché nel loro quadro la Lega rompeva i coglioni, si è permessa. Io ho l'altro dubbio che vogliono veramente mettere lo sbarramento all'otto e la Lega era l'unico partito che sta nei sondaggi era ancora sopravvolto. Potrebbe essere questo, ci possono essere diverse spiegazioni. Ne ho parlato già più volte. Comunque, l'operazione secondo me è o ammazzarla o inglobarla. Io voglio capire Maroni che gioco vuol fare. Se lui può fare tre cose: la Lega di lotta dura e pura per recuperare consensi. La Lega che fa finta di essere Lega di lotta dura e pura e poi sotto banco e quindi fa da argine, oppure la Lega che si arrende e entra nella maggioranza montiana. Non lo so quale di queste tre posizioni sceglierà. Di fatto la Lega di lotta dura e pura temo che sia abbastanza... Sì, il giochino... Del facciamo di fatto, guardate, io sono convinto di una cosa, che il rischio che noi corriamo è che venga fuori qualcosa di peggio della Lega, anche se me l'avessero detto 2 anni fa che poteva essere qualcosa di peggio della Lega, avrei detto non è possibile, cioè siamo già a livello dei primati, cioè poi sotto, cioè proprio siamo a livelli già di anello di congiunzione fra Roma e la scimmia, e sotto. Beh, la situazione della destra a Roma va molto 20.000. Perché guardate, la Lega è stato un fenomeno ambiguo, perché è vero che ha portato su posizioni xenofobe, c'è una rivolta populista, cioè proprio, diciamo la verità, la Lega è i gas intestinali di questo paese, cioè proprio il peggio del peggio, però ha avuto anche l'effetto di drenare e impedire la nascita di cose ancora più fascistoidi come il Front National, come il movimento di Haider, eccetera. Ora io non vorrei, o i repubblicani tedeschi o teste di cazzo del genere, io non vorrei che lo scasso della Lega magari riporta indietro una parte della vecchia anima democristiana, ma ti fa nascere una forza nuova del livello del Front National, beh, di quel livello no, ma insomma una forza nuova, partito politico. Forza nuova non lo so. Più la destra poi. Infatti non è borghese quello fa. È borghese, più la destra. Sì, ma non lo farebbero fare a lui. Se questa operazione viene fatta a qualcuno, vanno a pigliare quel coglione. Infatti, dicevo. Vabbè, borghese è proprio. Troppo coglione perfino per quelli. Però, ecco, non vorrei che fra un anno stessimo a dire che in fondo la Lega non era poi tanto male. Vabbè, tornando a noi, bicchiere d'acqua, allora dicevo, ma se tu elimini la spiegazione e a maggior ragione l'interpretazione, perché a quel punto la storia diventa una specie di arazzo nel quale tu leghi i fili a piacimento secondo l'immagine che vuoi costruire, se la storia è questa, ma anche la narrazione diventa impossibile. Intanto, se non hai la spiegazione, ti salta il rapporto fra il presente e il passato. Cioè, se non c'è una serie di nessi causali, e questi nessi causali devono essere conoscibili, perché se ci sono e non sono conoscibili, sarebbe come se non ci fossero, almeno dal nostro punto di vista, no? Quindi occorre che ci siano dei nessi causali conoscibili fra il passato e il presente, in mancanza dei quali non si capisce qual è il rapporto fra il passato e il presente. Di conseguenza non sappiamo neppure cosa è importante e cosa no. Come fai a decidere che quella è una cosa più importante di un'altra? In fondo, se non c'è spiegazione, qualsiasi cosa, a questo punto Mazinga vale Napoleone. Tanto scontro finale. Ma cioè, a quel punto qualsiasi cosa. Ma soprattutto l'idea di intreccio, già quella in qualche modo presuppone un intreccio di rapporti causali, di, cioè in qualche modo deve esserci una relazione fra i diversi fili di questo intreccio. Il nodo si deve pure comporre e quindi a quel modo devi essere in grado poi di scioglierlo o di... Quindi queste posizioni sono posizioni estreme che, pur segnalando un problema che lo storico deve sempre avere presente, perché deve sempre essere in grado di relativizzare i risultati della sua ricerca e di essere molto laico nei confronti delle stesse sue tesi, però attenzione, sono delle sono quelle provocazioni culturali che piacciono tanto ai francesi, ma che tendenzialmente poi alla fine sono destinate a non... Anche perché, vedete, ci sono tutta una serie di contrapposizioni, poi ce ne occuperemo in altri incontri, che secondo me non hanno ragione di essere. Pensate per esempio a una cosa. La classica contrapposizione fra storia-narrazione, storia-spiegazione, che a sua volta determina un'ulteriore conseguenza. Di solito si pensa che la storia-spiegazione privilegia cose come la struttura, come la storia non evenemenziale degli annal. Struttura, tendenza, cambiamento, tutte queste cose, diciamo, la longue durée. Viceversa, la storia-narrazione privilegia l'evento, l'evenemenzialità. Racconta una battaglia, racconta... una biografia, racconta un episodio, racconta una campagna elettorale. In realtà poi le cose non stanno esattamente così. Intanto perché anche la storia narrazione deve fare i conti con i soggetti collettivi e istituzionali e con le strutture. Anche la storia narrazione non può ignorare che una società islamica è leggermente diversa da una società occidentale, e se devi raccontare non puoi non raccontare il contesto dell'evento. D'altro canto, anche la storia non evenemenziale degli annal, che ha la fissazione della, diciamo, di una certa immutabilità, per cui Leroy La Durie, per esempio, ti può fare un'opera per dimostrare che c'è un paese della Francia del 300 che in 100 anni non cambia un cazzo, perché continua tranquillamente ad avere, sì, ho capito. Però, a parte il fatto che anche le istituzioni e le strutture hanno una loro storia, e la storia è fatta di eventi, anche le strutture hanno un loro inizio e una loro fine, e l'inizio e la fine in genere coincidono con qualche evento, per cui non è che la storia delle strutture, delle grandi tendenze, della longue durée possa ignorare gli eventi. A parte il fatto che poi la longue durée va benissimo se devi parlare di cose come il Medioevo, va molto meno bene se ti occupi di una società contemporanea come la nostra, che ha dei processi velocissimi, per cui diventa un po' più faticoso parlare di longue durée da noi. Qual è la longue durée del Novecento, diventa un po' più complicato. E quindi molte cose, narrazione e spiegazione, ma molto spesso devono stare insieme. Per spiegare devi sapere che cosa succede, perché guarda, ci sono due tendenze. C'è la tendenza di chi si accontenta, come Ranke, come von Ranke, cioè a noi non interessa la spiegazione, vogliamo sapere com'è andata. Sì, ma a parte dell'inutilità del sapere com'è andata se poi non te lo spieghi, anche il come è andata presuppone necessariamente il fatto che devi fare i conti con l'intenzionalità degli attori, per esempio. E cose che, passaggi che devi ricostruire, ti devi spiegare. Ma viceversa, anche la tendenza di alcuni che tendono a sfornare, poi ce ne occuperemo, di queste categorie come cornetti alla crema senza conoscere i fatti. Per esempio, Franco De Felice, da non confondere con Renzo De Felice, non il grande Renzo De Felice il piccolo, l'infimo, che era uno storico del Partito Comunista Italiano di Bari, che ho conosciuto tutto molto bene, che pasticcia con l'idea di doppio Stato e fa casini, e che scrive un saggio su, storia, su studi storici, in cui cerca di spiegare, siamo nell'89, cerca di spiegare le stragi, la strategia di attenzione, eccetera, eccetera, sulla base delle categorie, e fa errori bestiali, come per esempio lui pensa che il SIFAR e l'ufficio affari riservati siano la stessa cosa. Vabbè, che voglio dire, per chi si occupa di cose del genere, insomma, c'è, cioè, bello scivolone, eh? Come dire che l'Inter e il Milan sono la stessa squadra, sono due nomi della stessa squadra milanese. Oppure fa una quantità di errori bestiali, sposta gente di organizzazione, di cose. E dice, fai le categorie, fai niente, perché se non conosci i fatti, confondi queste cose, non sai com'è andata, di che categorie stai parlando. Quindi è evidente che le due cose sono interreali, non ha molto senso dividere. Oppure, per esempio, l'idea immediatamente conseguente, per cui poi tendenzialmente il discorso diventa questa: la storia economica si occupa di tendenze di lungo periodo, la storia politica è storia evenienziale, che anche questo non è vero, perché pure la storia politica ha strutture di lunga durata. La formazione, per esempio, del consenso, dell'identità politica regionale, locale, che può scavalcare parecchie generazioni addirittura in assenza di una continuità organizzativa, va spiegata. Per esempio, la descrizione delle linee di frattura fondamentali politiche nell'Europa del XX secolo viene fatta da Stein Rokkan, grandissimo politologo norvegese, sulla base di quello che in Europa si produce nell'anno 1000. Quindi lui identifica una serie di linee di frattura di natura religiosa, il conflitto centro-periferia, eccetera, eccetera, a base di quello che era il disegno dell'Europa fra il 1000 e il 1100. Quindi anche lì c'è una lunga durata, eh? E se ne accorge un politologo, peraltro, non uno storico. Viceversa, non è che la storia economica ignori gli eventi. Pensa alle crisi. La crisi non è che me la spieghi sulla lunga durata. Sì, ci saranno certamente cause di lunga durata, cosa c'è, però poi la storia della crisi è un succedersi abbastanza rapido, violento, di eventi abbastanza concentrati nel tempo. Come anche quest'idea che i cambiamenti che contano, questa è una stronzata che sentirete dire spesso anche da persone come per esempio il mio amico Attilio Mangano, che persona di cui io rispetto, però nella che sua un modo carino per dire che è un coglione nella sua, nel suo riformismo, perché lui c'è il problema che tutto quello che va in culo al PC va bene, da Amadeo Bordiga all'intervento americano in Iraq, e violenza, dice, no scusa, come stanno insieme la non violenza e l'intervento americano in Iraq, Bordiga e Blair, cioè, c'è qualcosa che non va. Allora lui ti spiega che uno degli errori del comunismo è il fatto di credere nella rivoluzione, cioè nel cambiamento direzionale voluto e concentrato nel tempo, perché gli unici cambiamenti che veramente hanno un peso storico sono i cambiamenti che avvengono gradualmente nella lunga durata. Quindi a questo punto la libertà umana non conta più un cazzo, perché tanto quello che succede, succede per i fatti suoi, a prescindere da quello che ciascuno fa. Non mi sembra una trovata tanto intelligente, anche perché, sai, questa è la cosa degli annal, per cui nel tentativo di parlare di grandi tendenze, per cui la storia umana è fatta da grandi correnti sotterranee rispetto a cui la storia politica è un brivido d'onde superficiale, ma in realtà non incide. Il risultato è che il 14 luglio 1789 in Francia sono successe un milione di cose, una di queste è stata la presa della Bastiglia. Ho capito, ma forse la presa della Bastiglia è un po' più importante del mercato di Bordeaux. A occhio, non voglio dire. Quindi, per esempio, una serie di contrapposizioni voi troverete fra le varie scuole, secondo me sono più prodotto un po' di esigenze politiche. Per cui, per esempio, c'è quando gli Annal, quando la Fondazione Rockefeller sborsa quel po' di soldazzi a Brodel, fa un'operazione che è quella di tirare dalla sua la scuola degli Annal, perché deve demolire appunto l'idea del cambiamento rivoluzionario, eccetera. E quindi, infatti, c'è una lettera di non mi ricordo se di Febvre a Brodel, a Bloch o l'altro, o il contrario, in cui uno difendeva questo giovane studioso Brodel che e l'altro dice: guarda, mi sembra un po' figlio di puttana, io non me ne fiderei più di tanto, una specie di Bettigiani, Pettinicchio, che appunto ho saputo, non so se siete più a corrente delle sue evoluzioni politiche più recenti. Sì, è diventato un po' sfascista. No. Culazzi. No. Culazzi è... No, sta in Cina. E... fa il consigliere comunale del quartiere di Aldo dalla Cina. Sì, più o meno. Allora, ecco, a volte ci sono operazioni politiche di questo tipo. A volte ci sono operazioni storiografiche o anche semplicemente beghe accademiche, perché per cui bisogna in qualche modo dare torto a quegli stronzi della scuola avversaria, perché a volte c'è inevitabilmente una cosa che, per esempio, troverete perfino in Marx: l'esigenza di affermare un paradigma nuovo sottolineando il più possibile il distacco dai modelli precedenti porta talvolta a enfatizzare troppo la novità che tu introduci, negando aspetti dei paradigmi precedenti che invece, sia pure nel loro errore, cioè, però c'erano, cioè, aspetti che invece potevano ancora continuare a essere. Quindi, sai, per una serie di ragioni la storia, che io difendo come scienza, però pur sempre una scienza molto influenzata da una certa partigianeria, se non politica, di scuola, di cordata, di orientamento culturale, ideologico, spesso fa di queste contrapposizioni che secondo me vanno risolte con spirito molto laico. Allora, per esempio, questa spaccatura fra storia politica e storia sociale ed economica, per cui la storia sociale economica sarebbe la storia delle tendenze profonde, la storia politica è la storia delle campagne elettorali più o meno, delle cose, cioè, è una sciocchezza emerita, cioè, non ha nessun senso, perché in realtà non ti spieghi la storia della politica se non in relazione anche ai movimenti economici e viceversa. La decisione politica a sua volta altera l'identità, la composizione dei soggetti sociali, della struttura economica del paese, quindi questo... E questo è un aspetto di cui noi ci occuperemo molto spesso quando poi ci troveremo volte per volte i problemi da risolvere, dove bisognerà tenere presente con l'opportuno equilibrio l'aspetto strutturale, l'aspetto evenemenziale, l'aspetto politico, l'aspetto storico-sociale, eccetera, eccetera. Personalmente resto dell'idea che all'interno di una struttura della ricerca che deve avere per forza l'aspetto della narrazione, l'aspetto dell'interpretazione e l'aspetto della spiegazione, tutte e tre sono momenti indispensabili, io tendo a spostare molto l'accento sulla spiegazione, anche in funzione dell'utilità sociale della ricerca. però resta il discorso di tutti e tre questi aspetti. Vuoi accentuare una cosa piuttosto che un'altra, ma tutte e tre ci devono stare. Allo stesso modo in cui storia politica, storia sociale, storia economica, storia militare vanno tenute insieme. Lì poi c'è un problema molto serio che dovremo discutere del rapporto fra generalismo e specialismo nella storia. Perché, guardate, uno degli aspetti della ricerca storica, perché uno storico non è un politologo, non è un economista? Perché uno storico, soprattutto, non è un sociologo? Perché non è una bestia. Già, no, volevo dire. Cioè, no, spiego meglio. Perché uno storico, per sua natura, non può essere specialista. Può utilizzare diversi specialismi. Ma lo specialismo della storia è per sua natura uno specialismo trasversale, transdisciplinare, perché i fatti umani non si presentano come gli spicchi di un'arancia, l'aspetto economico ben separato da quello militare, da quello politico, sciocchezze. Se tu vuoi spiegare la storia, non puoi che cercare di spiegarla insieme. Certo, non puoi essere un esperto di tutto, e il tuo è sempre uno specialismo trasversale ad alcuni specialisti, non puoi sapere tutto, dalla fisica alla storia delle religioni, alla economia, alla politologia, eccetera. Probabilmente avrai un certo gruppo di specialismi attraverso i quali. Certo, siamo sempre nella parzialità. Uno storico è prima di tutto uno che accetta la sua parzialità. Però ciò non di meno, lo storico non cade nella trappola del generalismo gratuito, per cui la storia è questo sapere critico, così che questa erudizione fine a se stessa, sciocchezze. Ma nello stesso tempo non cade nella trappola dello storico non contemporaneo, non storico del contemporaneo militare, non storico contemporaneo militare della reazione, ma storico del SIAE Marchetti, possibilmente la lettura di sinistra. Cioè, tutto questo non ha nessun senso, chiaro? Quindi un opportuno equilibrio fra aspetto generalista e capacità di manovrare conoscenze specialistiche è uno degli aspetti fondamentali della formazione equilibrata di uno storico. Poi entreremo nel merito delle fonti, di come si scelgono, eccetera, eccetera. Adesso abbiamo inzeppato già molta roba. Allora io mi fermerei, anche perché che ora è? Sì. Io mi fermerei qui per oggi, ma discutiamone un po'. Dopo cominceremo a vedere un po' meglio come si struttura, le varie fasi attraverso cui passa il progetto storico, la definizione del quesito, la ricerca, l'identificazione delle fonti, la ricerca delle fonti, il trattamento delle fonti, l'incrocio delle nozioni ricavate dalle fonti, quindi la costruzione del plateau narrativo, poi l'aspetto esplicativo, l'explanandum, e alla fine il risultato della tua ricerca, quindi le varie fasi attraverso cui passa la tua lavorazione. Ne parleremo alla parte. Adesso cominciamo a vedere già questo primo blocco, cioè il problema del rapporto col proprio tempo, la formazione del quesito storico, in un atteggiamento che non è di tipo amatoriale e non è di tipo funzionariale, ma con un approccio scientifico-professionale, la struttura attraverso i vari gli equilibri, no? Fra aspetto narrativo, aspetto interpretativo, aspetto esplicativo, eccetera eccetera eccetera, cose che ci siamo detti. Mi fermerei un attimo. Allora, e poi una domanda non nel merito ma un po' di spazio dell'argomento, la divulgazione invece che non è ricerca, allora ragazzi, il manuale, allora, il riassunto dei 47 libri incomprensibili su Vincenzo Matteotti. Allora, io vi sto spingendo a fare una cosa che non vorrei vi forcasse. Io vorrei che voi continuaste sempre a tenere d'occhio l'aspetto diciamo, dell'analisi storica è l'aspetto della comunicazione storica. Ora, la comunicazione ha anche l'aspetto della divulgazione, dell'intrattenimento, dell'educazione, cioè dal manuale al wargame, al format televisivo, al film, eccetera, eccetera. Perché, secondo me, uno storico deve avere contemporaneamente questo approccio? Per una serie di ragioni. Primo, perché in qualche modo quello che tu divulghi, la comunicazione deve comunicare pur qualche cosa. Quindi in qualche modo comunica anche i risultati della tua analisi. Alla fine la tua analisi dovrà concretarsi in qualche cosa, no? E qualche volta sarà una relazione che tu scrivi a un convegno, a un committente, qualche altra volta sarà un libro, sarà un saggio, qualche volta avrà caratteristiche più divulgative. Questo non è neutrale rispetto alla tua ricerca. Spesso è proprio la riduzione del risultato della tua ricerca in una dimensione di tipo divulgativo a segnalarti i limiti della tua. Prendi per esempio una cosa. Che cos'è un wargame se non un modello? Un modello è quanto di più legato all'analisi, no? Tu lo trasformi in un wargame e magari il wargame ti segnala cosa c'è che non funziona nel tuo schema. Oppure, per esempio, le reazioni del pubblico. Uno storico non scrive la sua opera da solo sulla torre. Se è uno storico che ha un minimo di audience, se è lo storico che lo fa, perché lo storico di carriera è quello che non serve a niente, perché è quello che scrive la cagata che gli serve il concorso, Storia dei socialisti di Manfredonia, lo pubblica in una cosa tirata in 500 copie, lo adotta perché qualcuno pur se l'ha chiesto, quindi i suoi studenti, che maledicendolo leggeranno queste quattro stronzate e si dimenticheranno tutto 5 minuti dopo dell'esame, certo. E quel libro non lascerà niente dietro di sé. Allora, quello va bene, d'accordo, ma se lo storico è uno che ha un minimo di audience perché ha delle recensioni, ha delle polemiche con altri storici, ha un riscontro di mercato di vendite, è uno che scrive in relazione a un pubblico, che possono essere gli studenti, ma possono essere gli acquirenti del suo libro, possono essere gli spettatori di un film o di un format televisivo, possono essere i suoi colleghi, un convegno, per carità. E in qualche modo è anche questo feedback che corregge e soprattutto ti stabilisce altre domande, corregge, modifica il tuo quesito storiografico, te ne fa nascere un altro. Quindi in qualche modo fra le due cose c'è una relazione molto stretta. Scrivere un manuale è mica una cosa, forse è la cosa più difficile per uno storico. Pensa per esempio al fatto che tu hai, ti do da scrivere un manuale per le scuole medie, no? Quindi hai a disposizione, poniamo, 800 pagine, già sono tanti, in 3 volumi, in cui devi far stare la storia, la preistoria ai giorni nostri. E devi scegliere che cos'è l'argomento importante, vabbè lo richiamo dopo, se no Francesco mi tiene un quarto d'ora. Devi scegliere qual è l'argomento importante, cosa non è, quindi vedi quanta roba devi buttare fuori. La soluzione che è stata trovata dai quei geni dei miei colleghi, qual è stata? Ah, semplice, mettiamo dentro tutto, storia delle donne, storia dei giovani, storia dell'ambiente, storia del clima. Risultato, un tomo di 1500 pagine che pesa 4 kg nello zaino di uno studente, il cui massimo risultato sarà la scoliosi del giovane, che non leggerà assolutamente, perché come cacchio fai in un anno a fare quella roba? Mi spiego. Aspetta un attimo, devo interrompere un attimo subito. Ti scrivo un centro di disintossicamento. Sono Martino, non devo passare. Però mi faccio di bamba in computer. quello è per me. No, no, che pensi di iniziare? Oh, tira la bomba, no, no, no, no, no, no, la bomba no, tranquilla. Oh, tira la bomba, no, non c'è neanche la tentazione. Boom! Sì, Steffi. Boom! Ecco. Dobbiamo fare... Ce l'ho fatto una riflessione, lo devo dire! Ragazzi! No, è stato per tutto così. Minchia la sera. Sì, è la droga che l'ha detto così. Tua madre! Tua madre! No, minchia, non è il ghetto. Lo sbrozzo. Lo sbrozzo. Troppo figo, sto lavoro storico. Mi piace di bru. Sto sbroffo. Mi hai chiamato ieri i Maruga? I Zibbi. Zibbi. Zibbi. Per dire? Maruga. Per dire Marulli? Ma io c'avevo i marulli. I marocchini. Sì, ho capito. O Marollo, dipende dalla roba. Certo, Marollo. Anche un diretti Zippi. Ma Zippi non ha proprio. Zippi. Il fratello è pazzo. Cosa ha fatto? È la prima volta che cazzo ho visto. Sta girando un po' di mail in giro Amping. Sta girando una serie di mail in giro Amping. Anch'io. Minchia, ma sono imbarazzante. Thank you.